Give me a new breath after my song. Give me a new breath after my song. Meno respiro, ma più musica. Meno fiato perché è sprecato in ogni mia rima. Ma almeno capo chinato rialzato, scudo e scoppio di ogni mio battito nel petto. Meno soldi, ma più rispetto, ma soldi lo stesso. Diverso il modo, diverso l'effetto, diverso il liquido nel quale sono immerso, diverso il nostro battito. Sono più furbo di te, ma meno forte, lo ammetto. Sono una ragione del cuore che batte anche in ore sole. Sono quello che la vita si è fermata, impantanata nel fango di un amore, ma che ora riparte, riparte in un nuovo amore. Amore, nuovo amore. Sono il maledetto perché sono senza età, sono già stato vecchio di un'altra età. Sono il saggio non di tanti libri, ma di ore solitarie di meditazione. Sono quando inalo la vita, la fiuto con ogni colore, immerso nel liquido dell'amore, oltre l'odio in stupore. Meno respiro ma più musica, meno fiato perché sprecato in ogni mia rima, ma almeno capo chinato rialzato, scudo e scoppio di ogni mio battito del petto. Meno respiro ma più musica, meno fiato perché sprecato in ogni mia rima, ma almeno capo chinato rialzato, scudo e scoppio di ogni mio battito nel petto. Meno respiro ma più musica, meno fiato perché sprecato in ogni mia rima, ma almeno capo chinato rialzato, scudo e scoppio di ogni mio battito del petto. Meno respiro ma più musica, meno respiro ma più musica, meno soldi ma più rispetto, ma soldi lo stesso, diverso il modo, diverso l'effetto. I can be jealous of you, you can also be jealous of me. Same time, remember motherfucker, remember, my money is on music.